Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il Messico ti prende come una sera d'estate, seduto in un patio a bere succo d'agave e ascoltando storie di zapatisti del Chiapas. È come un tacos gustato di notte, tranquillamente sdraiato al bordo della strada, quando la locanda sta per chiudere. Ciao, sono Enrico, sono di Vicenza, ho 32 anni, ho due figli, faccio rappresentante post vendita per una famosa azienda diagnostica italiana, e sono sposato con una moglie francese e viaggiamo molto insieme. Sono stata nel Chiapas, dove sacro e profano si mescolano polverosamente. I fedeli locali offrono scarpe da ginnastica e lattine di Coca-Cola al crocifisso della chiesina, mentre i bambini e le bambine, che si chiamano tutti Juan e tutte Marta, rincorrono galline spiritate e vendono piccoli manufatti. Bel ricordo, Erika. Dei tanti ricordi che ho del Messico, quello più bello l'ho provato dentro la chiesa sconsacrata di San Cristobal de las Casas. Pavimento ricoperto di aghi di pino, sulle pareti delle statue lignee dei santi cristiani, addobbate con fiori e lucine di Natale. In mezzo alla chiesa un paio di sciamani che bevevano Coca-Cola per scacciare gli spiriti maligni attraverso i rutti, e al loro fianco una gallina che non avrebbe avuto vita lunga. Nonostante tutto, un alone di magia, mai più provato. Doriano. Sono le 16:10, questa è Radio 24, oggi è giovedì, oggi viaggiamo. Il mercoledì si canta, il giovedì si viaggia, qui a Voi Siete Qui. Noi continuiamo a raccontare storie come facciamo tutti i giorni, lo facciamo anche oggi, giovedì 5 dicembre alle 16:10 in punto. Parliamo di Messico, se non lo avete capito, lo facciamo attraverso la storia di Enrico, che a breve vi racconterò, e poi sentiremo come facciamo tutti i giorni. Ogni giorno una storia, ogni giorno una persona diversa, ogni giorno cerchiamo di capire dove si scova la vita negli angoli delle vite delle persone che hanno voglia di raccontarcelo. E da qualche tempo, il giovedì, raccontiamo storie di viaggio. Oggi parliamo di Messico e un po' tutti hanno un proprio Messico. Chi c'è stato e chi non c'è stato. Chi c'è stato perché si ricorda di luoghi ben precisi. Chi non c'è stato perché vorrebbe andarci. È da quando Paolo Conte lo canta che sostanzialmente abbiamo un po' il mito del Messico. Un po' come si ha in maniera diversa il mito degli Stati Uniti. Ovviamente il Messico rappresenta qualcosa un po' per tutti. Il vostro Messico oggi 349-238-6666 o altrimenti i profili del programma, che sono Voi Siete Qui Radio 24, quello Facebook, quello Twitter è Voi Siete Qui R24. Il mio invece è semplicemente Matteo Caccia. Sono alla fine quanti i posti del Messico, se ci pensi, no? Sono Cancun, Tulum, quella zona lì del, come si chiama, lo stato dove si trova Cancun, ha un nome, Quintana Roo. Attenzione Bonini, non ci credevi, credo che Cancun stia in Quintana Roo, ma lo capiremo più tardi, sicuro. Margherita Ina lo scoprirà immediatamente. Cancun, dicevamo, città del Messico per chi va nella una delle più grandi capitali del Centro America, forse del mondo. E poi cosa c'è il Messico? Puerto Escondido, perché cinematograficamente ci ricordiamo la scena di Claudio Bisio che respira. E poi cosa c'è? La Baja California, che è la parte più lontana in realtà del Messico, che sta proprio sotto la California, altrimenti non si chiamerebbe Baja, dove è stato anche il nostro Tiziano Bonini. Dimmi qualche posto della Baja California al volo. Tijuana è già Baja California. Più giù. Dove c'è l'Hotel California degli Eagle, ma non ci viene in mente. 349-238-6666, il vostro angolo di Messico, il posto in cui siete stati, dei ricordi che avete legati a quel luogo e perché. 349-238-6666, altrimenti attraverso tutti gli altri profili. Intanto abbiamo scoperto che il Quintana Roo è lo stato preciso in cui si trova Cancun. Due cose so del Messico, questa è un'altra che non vi dico. Questa invece è la storia di Enrico che parla di Messico. Lui c'è stato e questa è la sua storia. È sempre qui con me. È il viaggio che dovresti fare, che ti resterà dentro e che ti accompagnerà per sempre. È quel viaggio che hai sognato e che ha segnato il modo di pensare, quello che un tempo poteva essere considerato un viaggio di iniziazione. È quel viaggio che si riaccende vedendo un'immagine su un libro. Si trasforma in un mare di emozioni traboccanti, vertiginose, nostalgiche. Pulsa dentro di te. È colore, è natura, è storia, è sacro e profano. E al di là del tempo e delle cose. è il Messico che ti chiama e non ti lascia più. Allora, questo viaggio in Messico risale al dicembre 2003, quando avevo 22 anni circa, sì. E avevo appena finito, sì, un corso di laurea. Ti cambia la vita e gli occhi, ti dona nuova vita e nuovi occhi. È la gente, con la loro messicanità, che vivi e che impari a guardare attraverso gli sguardi e non solo a registrarli. Sguardi di vecchi e di bambini, di rifugiati e di speranzosi. Eppure, nonostante tutto, non cessa la voglia di ballare, di sorridere, di confrontarsi e di raccontarsi con te, che sei solo di passaggio, ma che in fin dei conti, se lo vuoi, ci lasci il cuore in quel posto, l'anima in quelle pietre, in quei mari e in quei tramonti. Ricchezza e povertà si guardano da un lato all'altro della strada, la ruta sterrata, fianco a fianco, ogni giorno. Il Messico ti prende come una sera d'estate, quando sei seduto su un patio a bere succo di agave, ascoltando storie di zapatisti del Chiapas. È come un tacos gustato di notte, tranquillamente sdraiato al bordo della strada, quando la locanda sta per chiudere. O una birra bevuta a bordo spiaggia, tra la brezza del Caribe e il fruscio delle palme. Ti prende per mano e ti porta attraverso il tempo a scalare le vette dei templi e le piramidi, indietro nel tempo, mentre stai circondato dalla natura verde, rigogliosa, protettiva, che cela e che dà vita. Il Messico è dolore e gioia di chi per lui si è battuto, di chi lo capisce e di chi nemmeno ci prova. Sono le piume di Quetzal che galleggiano leggere nell'aria durante le cerimonie. Sono i dipinti con tempere naturali, sono le mani dei pochi discendenti maya rimasti che scolpiscono statue nei loro villaggi. Sono riflessi rossi dell'unica città a picco sul mare durante il tramonto. La cosa che mi ha più colpito del Messico e dei messicani è la loro allegria nonostante la situazione in cui vivono non sempre così felice. Il Messico è il viaggio che ti porta a contatto con la gente, le usanze, la storia, la natura, il mito, la leggenda, e ti resta dentro in un groviglio di emozioni. È un viaggio che ti cambia, ti fa crescere e ti scopre viaggiatore. Questo è il Messico che vale la pena di vivere e di scoprire. Questo è il Messico che per me è stato e chissà se lo sarà ancora. Questo è il viaggio che vorrei tramandare. Il mio Messico è stato molto più prosaico di quello vissuto da Enrico. Lavoravo per una piccola casa di produzione televisiva che faceva un programma di viaggi e le protagoniste erano due ragazze che passavano una settimana della loro vita in posti meravigliosi, a conoscere persone e a fare cose meravigliose. Arrivavamo in Messico partendo con un charter diretto a Cancun. Era novembre. Ed era la prima volta che decollavo col cappotto e atterravo in maniche corte. L'aria era umida, accogliente. Nella stanza d'albergo fui salutato da un ragno grosso quanto un pugno che feci accomodare fuori con lo scopetto del bagno. Visitammo solo quella parte del Messico, quella caraibica, quella in cui l'acqua ha il colore di una piscina e sembra avere la consistenza di un lenzuolo. Abbiamo fatto tuffi nei cenotes e visitato i cimiteri agghindati a festa per los Dias de los Muertos. Mi sono innamorato di una giovane istruttrice in un grande acquario di Cancun. Lei ti faceva immergere all'interno di una gabbia, nella vasca degli squali. E forse me ne innamorai perché la paura unisce e quando qualcuno ti dà tranquillità in quelle situazioni, ti sembra di volerlo come guida per tutta la vita. Incontrai un ragazzo, una guida, che mi raccontò di avere un'immagine a volto scoperto del subcomandante Marcos. Io avevo 25 anni, non sapevo nemmeno bene chi fosse, però quel nome, subcomandante, mi piaceva tantissimo, quindi gli chiesi di mostrarmela. Eravamo sul pulmino in affitto che ci portava verso Tulum, l'antico insediamento maya a picco sul mare dei Caraibi, e lui, dopo un'esitazione, tirò fuori questa foto, facendomi giurare di non dirlo in giro, che ne andava della sua vita e in fondo anche della mia. E poi finalmente mi mostrò quell'immagine. La foto ritraeva un tizio, un uomo di circa 40 anni, in piedi in una stanza con un tavolo e delle persone sedute alle spalle. Aveva i capelli scuri e sorrideva. Ovviamente non potei non assecondare il suo gesto con un'esclamazione tipo «Ma dai! Ha questa faccia qui, quindi!» Che tra l'altro lui non capì essendo messicano. E poi da lì per anno io ho raccontato in giro di aver visto, un giorno, su un pulmino su una strada messicana, la faccia del subcomandante Marcos e di conoscerne l'identità. Solo un giorno, quando un tizio che manco conosco bene mi ha chiesto se qualcuno l'avesse mai confermato, io gli dissi: confermato cosa? Beh, che quello era realmente Marcos. Ecco, quel giorno lì capì che se hai sempre visto un tizio con il passamontagna, chiunque senza un passamontagna può essere quel tizio. Una strada appena appena asfaltata in mezzo alla foresta, un grande sole che illumina alcuni alberi, non quelli in ombra, e lui, Enrico, con la faccia di un attore americano, di un attore californiano da serie televisiva, capello biondo, occhiali da sole, appena appena abbronzato, camicione bianco, appoggiato a un cartello stradale dove c'è disegnato un'iguana e c'è scritto: precaution, paso de iguanas. Pronto, Enrico? Sì, ciao, ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie. Non c'hai sempre questa espressione da gagà, vero? No, non ce l'ho. Solo di tanti anni. Solo quando sei in Messico. È cambiata anche la capigliatura. Ok, cosa fai adesso nella vita, Enrico? Ma come ho detto a Margherita, faccio rappresentante post vendita per un'azienda di diagnostici italiana. Cioè lavoro negli ospedali. Ah, ok. Quindi post vendita vuol dire che vai negli ospedali e dici: allora ragazzi, come va? Tutto a posto? Tutto a funziona posto. Tutto? Boom! Ah, benissimo, allora io vado. Esatto, funziona proprio così. Più o meno questo è l'approccio. Esatto. Tu insomma lavori quindi in zona tua, hai una tua zona, giusto? Che è il nord-est, immagino. Sì, esatto. Però ci dici che sei uno cui piace viaggiare e hai una moglie francese? Esatto. Che sì. Non so se è collegato col fatto che ti piace viaggiare, però mi suona esotico, essendo di Lomentino, mi piace questa cosa che dici: mi piace viaggiare, a una moglie francese. Dove l'hai incontrata? Diciamo che ho avuto la fortuna di trovarla in Italia, era reduce dall'Erasmus e quindi questo sono stato fortunato. Ho fatto poca fatica, però vediamo, abbiamo lo stesso punto di vista su quello che è il viaggiare, il modo di viaggiare. Quindi i tuoi figli fanno parte dell'ormai famosissima Erasmus Generation, i figli nati da gente in giro per l'Europa facendo finta di studiare sostanzialmente. Esattamente, potranno fare la stessa cosa che loro un giorno, spero. Dove siete stati oltre al Messico? Beh, a parte che in Messico ci sei stato da solo, però Dove siete stati? Noi siamo stati alle Seychelles, stiamo visitando parecchio la Francia, siamo stati in Inghilterra. Io ci sono tornato perché ho avuto la fortuna di viaggiare da quando avevo 14 anni, però viaggiamo sempre in questo modo, uniamo un po' la vacanza con quello che è il viaggio e la scoperta. Enrico, dimmi di cose illegali che hai fatto in Messico. Cose illegali, a parte qualche sbornia di tequila offerta in casa. Poca roba. Il verme l'hai mangiato? Il verme no, non ho avuto il coraggio. Ma il verme mangiarlo. Della tequila è vero? Porti fortuna, eh? Sì, ma soprattutto è veramente afrodisiaco, scusami. È veramente allucinogeno oppure è una roba che ci si racconta? Senti, io penso sia realmente allucinogeno, non l'ho provato, però lì tra vermi, funghi e quant'altro penso che... detto così sembra un sottobosco, ma sì, guarda, vai in Messico, pieno di vermi e di funghi. Enrico, scusami, in questi anni avete mollato un po' i viaggi perché ci sono meno soldi oppure dalle parti vostre tutto funziona bello dritto? Ma guarda, dalle parti nostre la crisi si sente. Quello che io noto al giorno d'oggi è che c'è un ritorno al continente, forse dovuto alla crisi. Si viaggiava più facilmente anche con meno soldi all'epoca in cui io andai in Messico e iniziai a viaggiare. Ve li organizzate da soli i viaggi oppure avete un tour operator? Principalmente sì, facciamo sempre viaggi organizzati da sé con internet e poi cerchiamo di andare dalla gente del posto evitando le grandi catene. Non sempre è facile, però ad esempio alle Seychelles dove tanti viaggiano organizzati si può fare anche questa esperienza. Intanto Enrico, mi scrive Marco da Ferrara che risponde alla nostra, cioè alla mia domanda più che alla tua: il verme della tequila io l'ho mangiato e non è allucinogeno, così oddio, magari Marco quello che hai mangiato tu non era allucinogeno. Noi invece, a noi piace immaginare qual era quel film in cui c'era un tizio che a un certo punto era nato il 4 luglio. Ragazzi, oggi mi viene tutto, non so cosa sta succedendo. Enrico, io ti ringrazio moltissimo per la storia e per il per, insomma, per l'esperienza. Saluta la tua moglie. Dove andate a Natale? Cosa fate per le vacanze? A Natale a casa. Siamo sì, a casa di a lei casa. In Francia, in mezzo ai mercatini alsaziani. Di dov'è lei? Lei è di un paese al confine con l'Alsazia, Belfort. Belfort, è un posto bellissimo, immagino. È un posto dove c'è molta natura, sì. Cosa fa lei in Italia, invece? In Messico. Lei adesso si occupa dei nostri figli, prima faceva commerciale estero. Ok. E penso tornerà a farlo. Adesso però, si occupa dei figli, va bene. Quanti anni hanno, che dicevi, Enrico? 3 anni e 1 anno. E allora, ha voglia a pedalare. Grazie mille, Enrico, buona giornata. Ciao, grazie. Tra l'altro dico, ha voglia a pedalare io, come se avessi esperienza di figli e figli. 349-238-6666. Arrivano i messaggi anche su Twitter e su Facebook che riguardano il Messico. Del Messico mi è rimasto più di tutto il mio viaggio nel deserto a Real de 14. Morena. Uno potrebbe dire qualsiasi cosa, ovviamente, qualsiasi nome, e noi lo leggiamo. Quasi 20 anni fa, Tulum e le mitiche Cavagnas de Armando, di Don Armando, temo non ci siano più. Però ci sono, per quel che mi ricordo, queste capannotte sulla spiaggia. La spiaggia di Tulum va per la maggiore, forse perché fa anche parte dei tour operator, no? Sono più resort in genere. Il mio Messico si chiama Pachime, nello stato di Chihuahua, Amalia. E poi arriva un po' il messaggio alla Maurizio Costanzo, Crete Senesi, altro che Messico. Perché Maurizio Costanzo aveva sta roba, mi ricordo quando faceva il Maurizio Costanzo Show. Ma mi togli un attimo la base, poi. C'è una roba alla Maurizio Costanzo? No, lasciala, non cercarla neanche. Ma perché andare fuori dall'Italia sempre, che abbiamo tutte ste cose belle in Italia, perché andare alle Maldive, che si trovano i topi, l'Italia, la Calabria, la Sicilia. Grazie. Non sono fortissimo come imitatore, lo so, devo un attimino riprendermi, però del Messico mi ricordo, il mio Messico è da dimenticare, solo dollares e polizia, che non so, avrà fatto qualcosa di illegale, gli avrà chiesto dei soldi e fatto qualcos'altro. Io vi ricordo, il verme, hai ragione che il verme è nel mezcal, non nella tequila, ha ragione Sergio. Il mezcal che è fatto dall'agave. No, la tequila è fatta dall'agave. Niente, qua ci stiamo infilando in una roba. Confermo che il verme non è allucinogeno, solo che quando hai il coraggio di ingoiarlo hai già bevuto tanta di quella tequila che le allucinazioni vengono comunque. No, non è allucinogeno, niente. Sto verme è tutta finzione. Io vi ricordo che questo programma lo potete scaricare in podcast se non riuscite ad ascoltarlo, ed è molto facile farlo. Andate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, e c'è una sezione ascolta, condividi, e poi avete invece anche la pagina archivio dove vi potete ascoltare online in streaming tutte le puntate della stagione. Quindi solo le ultime 5 scaricabili, altrimenti in streaming tutte quante. Se invece siete più comodi ad avere un abbonamento che ve lo fa automaticamente, andate su iTunes o tutte le app disponibili, compresa ovviamente quella di Radio 24. Invece, se avete voglia di raccontare una storia, sapete che noi tutti i giorni siamo qui e continuiamo a leggerle. Inviatele a Voi Siete Qui, @radio24.it. Una storia semplice, che parli di voi, che racconti qualcosa di voi, ma che sia una storia, cioè sia un episodio. In altri termini, un aneddoto, che ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Vi mettete lì stasera, oggi che giorno è? Oggi è giovedì 5 dicembre, non avete ancora cominciato a preoccuparvi per il Natale, la sera, oppure se vi siete preoccupati per il Natale, avete un bel computer, avete già preso tutto online, quindi non vi dovete preoccupare più di tanto, non dovete correre in giro, vi mettete lì questa sera, non c'è tanto da fare, cosa c'è? X Factor, ma se non avete Sky non lo guardate, vi accendete il computer, c'è il calcetto, se non fate il calcetto, prima del calcetto o dopo il calcetto, aprite il vostro computer e vi viene in mente prima o poi una storia che avete voglia di condividere e che in qualche modo racconti di voi. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini e a Margherita Ina, grazie soprattutto ad Enrico, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Fiorenza, vivo a Villa Guardia, la storia di domani è la mia e parla di Lucio Battisti. Questa è la mia storia e io sono qui. Siete qui.